Torno all'appuntamento con Rock Legends, microfono sempre il vostro Jean-Luc. Allora, mi preme dire innanzitutto che sarà una puntata speciale un po' diversa dal solito, perché oltre a me in studio ho il piacere di avere un ospite, dovrei dire una co-conduttrice. A te la parola per le presentazioni. Ciao a tutti, sono Alessia. Alessia non è qui per caso, infatti nelle prossime tre parti avremo con noi al telefono Ida Ivelai, la bassista del gruppo metal svedese Crucified Barbara, e faremo ascoltare alcuni brani tratti dal nuovo disco Till Death Do Us Party. Intanto, prima parte in cui ripercorriamo a ritroso la storia delle rock band al femminile. Il primo brano era delle Phantom Blue e si chiamava Why Call It Love, dal disco Phantom Blue del 1989. In questa band militava anche una giovane Michelle Meldrum, ahimè scomparsa l'anno scorso a soli 39 anni. Alessia, adesso te la parola per annunciare la prossima canzone. Sì, la prossima canzone è delle Rock Goddess, il trio inglese delle sorelle Turner e di Tracy Lamb, dal disco di esordio Rock Goddess del 1982, con la canzone Heavy Metal Rock and Roll. Torniamo in studio. Alessia, noi siamo reduci dal concerto di venerdì scorso delle Crucified Barbara. Una tua opinione sul loro live a Bologna? Beh, direi strepitoso. Allora, direi di chiudere la parte con le Girls School, anche loro passate di recente dalle nostre parti, dal loro disco di esordio Demolition del 1980, con un brano storico. Dille pure tu, Alessia. Emergency. Restate sintonizzati perché tra poco avremo in linea telefonica Ida Ivelai delle Crucified Barbara.